Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. '19:16 in questo istante, gentili ascoltatori, buona serata, buon sabato, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Laura Faggin, Nadia Zammitti in redazione e Filippo Aureggi in regia. Anche questa puntata potete commentarla via mail, via sms, via Facebook, nessunluogo@radio24.it, poi sul telefonino 349-238-6666, su Facebook nessunluogolontano-radio24 oppure Twitter nessunluogo24. Oggi, a Nessun luogo lontano, facciamo un giro del mondo, seguendo un sentiero che attraverserà più continenti, regioni ricche di campi agricoli, deserti sterminati e inaccessibili zone montuose, ma anche moderne città, e lo faremo in cerca di acqua e cibo e risorse. Insomma, stasera vi propongo una riflessione che scaturisce dai numeri, che nella loro crudezza spesso ci restituiscono realtà ignorate o punti di vista nuovi. Questi numeri: giovedì scorso, in contemporanea in 10 paesi, tra cui l'Italia, è stato presentato l'Indice Globale della Fame, un rapporto che fa il punto sulle risorse del pianeta, che stila una classifica dei paesi in cui vi è scarsità di risorse e in cui si soffre la fame. Ma siccome dietro ai numeri ci sono uomini e donne, abbiamo scelto per cominciare tre voci, tre facce, tre storie. Quest'anno ho raccolto solo 500 kg di grano per ettaro. Ho seminato troppo tardi perché i prezzi del carburante sono aumentati improvvisamente all'inizio della primavera. Quando ho avuto abbastanza soldi per il carburante e per i servizi di aratura, era troppo tardi. Tomnisoy Davlat, distretto di Baljuvon, Tagikistan. Già adesso è difficile raggiungere i pozzi perché devi attraversare i terreni degli altri per arrivarci. Ma questo è proibito e molti proprietari terrieri recintano anche i propri campi. Con il peggioramento della situazione delle terre, la questione dell'acqua diventerà ancora più difficile. Irene Kaseja, distretto di Kabarole, Uganda. So che la foresta attorno al villaggio è stata gravemente disboscata. Quando ero giovane, avrò avuto 20 anni, la foresta tra Pauk e il nostro villaggio era molto densa. Nessuno poteva osare attraversarla, neppure di giorno. Di fatto, forse la situazione potrebbe migliorare con l'introduzione di combustibili alternativi alla legna. Io una volta avevo una stufa, in argilla. L'ho tenuta a lungo per mostrarla agli altri e spingerli a usarla, ma non sono mai riuscito a convincere mia moglie. U Quintei, municipalità di Pauk, Myanmar. Queste sono solo alcune delle testimonianze contenute nel rapporto redatto da Weltungerhilfe, International Food Policy Research Institute e Concern Worldwide, la versione italiana curata invece da CESVI e Link 2007, lo dicevo, e il rapporto descrive questo Indice Globale della Fame, il sottotitolo La sfida della fame, garantire una sicurezza alimentare sostenibile in un contesto di scarsità di terra, acqua e energia. Do il mio buonasera a Stefano Pizziali, che ha curato il rapporto. Pizziali, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Stefano Pizziali di CESVI, telegrafico, poi perché dobbiamo andare in Pakistan, le risorse bastano per tutti? Le risorse sono sottoposte a una forte pressione. Bastano per tutti se sappiamo usarle bene, se non le sprechiamo, se i diritti all'acqua dei piccoli proprietari vengono garantiti, se per produrre energia non consumiamo altro suolo, se la terra non è sottoposta a rischio di degrado, desertificazione e le foreste sono salvaguardate. Tutto allora, ciò non si può ottenere immediatamente, ci vuole uno sforzo coordinato. E in parte queste sono alcune delle direttive che voi suggerite appunto nel rapporto. Ascoltiamo insieme una sintesi di questo rapporto e poi, come promesso, andremo nella regione del Sindh, nel sud del Pakistan. Nel 2012 sono quasi 870 milioni le persone che al mondo soffrono di fame o malnutrizione. È quanto emerge dall'ultimo Global Hunger Index, il rapporto sulla sicurezza alimentare nel mondo, redatto dall'International Food Policy Research Institute, da Concern Worldwide e da Welt Hunger Life. Gli effetti negativi degli ultimi eventi, quali siccità, corsa globale agli investimenti in terreni agricoli, fluttuazione dei prezzi dell'energia e shock nelle forniture energetiche, mettono in evidenza la scarsità di risorse da cui dipendiamo per garantire l'approvvigionamento alimentare mondiale. Se, come previsto, la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, appare sempre più chiaro come diventi impossibile sfamare tutti in modo sostenibile. È una priorità assoluta iniziare da subito a produrre più cibo utilizzando meno risorse e usare la produzione agricola in maniera più efficiente. E proprio questo è il tema su cui si incentra in particolare il rapporto di quest'anno. Come conseguire la sicurezza alimentare in modo sostenibile in un contesto di stress idrico, agricolo ed energetico. Per misurare la fame si possono utilizzare indicatori di vario tipo. Il Global Hunger Index ne riunisce tre: la percentuale di denutriti o sottonutriti sul totale della popolazione, la percentuale di bambini di età inferiore ai 5 anni sottopeso, il tasso di mortalità tra i bambini al di sotto dei 5 anni. 20 paesi hanno ancora un livello allarmante o estremamente allarmante. Tra le regioni mondiali che continuano a presentare i livelli di denutrizione più alti ci sono l'Asia meridionale e l'Africa subsahariana, mentre Haiti, Eritrea e Burundi sono i paesi in cui l'indice tocca i record di gravità. Non sono inclusi nell'indice però alcuni paesi con gravi condizioni alimentari, nei quali non si riesce a reperire dati o informazioni, come il Congo, la Somalia, l'Iraq o l'Afghanistan. Vi sono però alcuni dati positivi. Dal 1990 ad oggi, il numero totale delle persone che soffrono la fame nel mondo è diminuito di 132 milioni. E una quindicina di paesi sono riusciti a ridurre del 50% il proprio punteggio relativo al livello della fame nella popolazione. Tra questi ci sono Cina, Vietnam, Messico e Ghana, l'unico stato africano ad aver centrato il proprio obiettivo. Il successo del Ghana nel ridurre la propria quota di popolazione affamata è dovuto soprattutto alle riforme economiche interne che hanno favorito la crescita dei produttori agricoli medio-piccoli, espandendo sia i consumi interni che le esportazioni. Ma l'indice della fame riguarda anche i paesi industrializzati, dove sono distribuiti 16 milioni di persone denutrite. Allora, io ricordo che non ci sono solo in gioco vite umane, ben inteso, il benessere, ma anche la stabilità politica e geopolitica. Bisogna ricordare che le prime scintille delle rivolte arabe, della cosiddetta primavera araba, scoccarono proprio per l'aumento dei prezzi del pane, fra le altre cose. Dobbiamo ricordare che in molte zone, ad esempio dell'Africa subsahariana, penso non solo alla Nigeria, ma ad esempio tra Sud Sudan e Sudan, gruppi tribali, gruppi clanici combattono proprio per l'accesso alle risorse. Siamo con Stefano Piziali di CESVI, che è il curatore dell'edizione italiana del rapporto. Con lui approfondiremo meglio i numeri che appunto compongono questo rapporto, ma prima andiamo, come promesso, in Pakistan. Andiamo nella regione del Sindh, lo facciamo con Pietro Fiore, che è capo progetto di CESVI, che lavora in quel paese da anni e che abbiamo raggiunto proprio mentre era in viaggio. Perché il Pakistan? Perché è un esempio emblematico, un paese in crescita, una potenza militare, dove però le alluvioni per 3 anni consecutivi hanno messo in ginocchio milioni di persone. Considera che le alluvioni del 2010 e del 2011 nel centro e sud del Pakistan, quindi nelle regioni nelle province del Punjab e del Sindh, hanno sfollato circa 25 milioni di persone, di cui almeno 30% sono bambini. Noi lavoriamo con loro, lavoriamo nelle comunità, quindi storie ne sentiamo tantissime. Una che ricordo, che mi ha colpito anche perché continua a essere uno dei nostri beneficiari, è quella di Amir, che di notte, per portare in salvo la famiglia dal suo villaggio di origine fino alla prima zona salva, ha percorso più di 20 chilometri insieme al figlio di 12 anni per portare in salvo prima le sorelline, poi la mamma, poi tornare indietro, prendere quel po' di masserizie e di scorte alimentari che si erano salvate e la madre, che è una signora anziana. Questo si svolge nel sud, appunto nella provincia del Sindh e nel distretto di Mirpur Khas, che è uno dei distretti che sono stati maggiormente colpiti ed è uno dove noi siamo intervenuti per primi con gli aiuti umanitari. Quando un'organizzazione come CESVI, tra le altre che sono intervenute per queste alluvioni, opera sul terreno, che cosa fa in situazioni di emergenza come queste? Dunque, noi dividiamo l'intervento in tre fasi. Una prima fase, che è quella che chiamiamo il salvare le vite, dove queste persone si riuniscono, dove trovano spazio ancora asciutto nel caso delle alluvioni, o uno spazio tranquillo nel caso delle zone di conflitto armato, che è consistita nella distribuzione di acqua, razioni alimentari, le opere di sanamento, quindi latrine, per evitare che ci siano dei contagi. Questa dura normalmente dai 30 ai 45 giorni e ci vede impegnati veramente giorno e notte nei campi di raccolta o nelle aree che sono aree ospitanti. Poi c'è la seconda fase, che è la fase quella di ripristino delle attività produttive e che sono specialmente legate ad agricoltura e pastorizia, che sono quelle che hanno un immediato riscontro nel ristabilire la sicurezza alimentare. Ecco Pietro, CESVI lavora non solo a sud nelle zone colpite dall'alluvione, ma anche nel nord del paese, dove spesso e volentieri la cronaca ci restituisce notizie di attacchi, soprattutto coi droni. È una zona al nord, al confine con l'Afghanistan, dove sono presenti i gruppi talebani e dove evidentemente il governo pakistano, ma non solo, conduce operazioni militari. In questo caso, da un lato abbiamo l'alluvione, quindi eventi naturali, dall'altro abbiamo eventi bellici che vanno a condizionare quello che è la produttività, la vita, quindi la quotidianità di centinaia di migliaia, se non milioni di persone. In quel caso, nel nord, come operate? Come funzionano i vostri programmi di emergenza? Ma in questo caso, come per le alluvioni, considera che gli interventi militari che sono nelle zone appunto al confine con il Pakistan sono degli interventi che spesso sono svolti in giornata o nell'arco delle 24 ore, quindi immagina le forze armate che vanno nei villaggi e avvisano che tra 24 ore bombardiamo tutto e quindi le persone prendono quello che hanno e il poco che riescono a caricare e percorrono a piedi delle distanze che sono veramente incredibili per andare nei punti di raccolta. Naturalmente non possiamo intervenire nelle zone direttamente del conflitto, ma ci limitiamo a lavorare in emergenza nelle zone di raccolta. In questo usiamo molte risorse locali, anche perché con l'iniezione di fondi internazionali riusciamo comunque a riattivare o a supportare un pochino il commercio locale. Meri khane mainu lagde ne gande main te khaavanga chicken di boti ode naal khameer di roti paave ho chahe chicken to mehngi daal e he he meri maa ne pakaye aloo ande. Patate e uova è il titolo della canzone rock satirico di un gruppo pakistano che si chiama Begarat Brigade. La canzone si chiama Aloo Ande e sono un giovane gruppo rock che combatte contro la censura e la celebrazione della violenza in Pakistan. E sono le note che ci accompagnano in questa seconda parte di Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo parlando dell'Indice Globale della Fame, la sfida della fame, quanto il mondo riuscirà a garantire un accesso equilibrato a una popolazione che, si dice, come avete sentito dalla scheda, nel 2050 dovrebbe raggiungere i 9 miliardi di persone. Ricordo ancora una volta, al di là, come dire, delle connotazioni umanitarie, se volete buoniste, vi sono risvolti geopolitici importanti, anche militari. Lo ricordo ancora una volta, molte rivolte, quelle del mondo arabo, sono nate, le scintille sono scoccate proprio dall'aumento delle derrate alimentari, dall'aumento dei prezzi. Ancora si combatte in tantissimi teatri nel globo per l'accesso a un pozzo d'acqua, per i campi da coltivare o da destinare ai propri greggi. E siamo con Stefano Pizziali, che è il curatore italiano di questo rapporto, che al di là dei crudi numeri è interessante perché intanto fornisce delle soluzioni o quantomeno delle direttive. Però con Pizziali, prima di tornare in Pakistan per la seconda parte dell'intervista con il tuo collega di CESVI, Fiore, volevo un attimo toccare un paio di paesi che, come dire, sono stati particolarmente virtuosi negli ultimi anni. Abbiamo citato il Ghana, che con una politica agricola estremamente efficace e mirata soprattutto ai piccoli e medi produttori è riuscita a scalare questa infausta classifica. Pizziali, vuoi citare qualche altro paese particolarmente virtuoso? Sì, in Asia meridionale abbiamo una situazione molto interessante. Due paesi confinanti, Bangladesh e India, che negli ultimi anni hanno avuto evoluzioni direi contrapposte, mentre l'India è migliorata solamente di 8 punti nel nostro indice, il Bangladesh è migliorato di ben 13 punti. Come è stato possibile tutto ciò? Beh, da una parte grazie a politiche lungimiranti del governo locale, che ha creato condizioni di protezione delle popolazioni più deboli. Dall'altra anche il ruolo importante che rivestono nel paese le organizzazioni non governative, con i loro piccoli programmi di supporto al microcredito, per esempio, alla piccola imprenditoria. E poi soprattutto il fatto che in Bangladesh, al contrario dell'India, esiste un sistema di raccolta dei dati molto più affidabile. L'India, si pensi solo a questo fatto, ha oggi una percentuale di bambini sottopeso che è quasi il doppio rispetto all'Africa subsahariana. E questo il governo indiano lo sa bene che è un problema di politiche non coordinate tra i vari stati indiani, è un problema di incapacità di raccogliere i dati appropriatamente ed è soprattutto un problema di mancata soluzione della parità tra uomini e donne che affligge un po' tutta l'Asia meridionale. Ecco, volevo tornare in Pakistan perché con Fiore, che abbiamo raggiunto mentre era in viaggio nella regione del Sindh, un viaggio piuttosto complesso, ho chiesto, sempre per i risvolti geopolitici di cui facevo riferimento prima, quanto i gruppi talebani presenti nel nord hanno fame della fame dei pakistani, cioè quanto riescono a sfruttare le emergenze, come ad esempio le ultime alluvioni. Ascoltiamo. Naturalmente i gruppi talebani quando intervengono in queste zone trovano terreno fertile perché strumentalizzano quelle che sono le carenze strutturali, le mancanze del governo e in alcuni casi appunto anche le mancanze della diplomazia occidentale per far pressione sulle persone o garantendo delle zone libere e tranquille governate da loro oppure distribuendo addirittura del denaro o altri beni di prima necessità in quell'ambiente. Riescono anche ad avere molta presa e a reclutare giovani che vedono la loro causa come una causa di salvezza per tutto il popolo pakistano. Ecco, noi stiamo facendo un'opera di riduzione anche giornalistica parlando del caso Pakistan, tra virgolette, legato a quello che è l'insicurezza alimentare. Abbiamo visto che vi sono più fattori, da un lato quello bellico, dall'altro quello naturale o climatico. Dal tuo punto di vista, conosci molto bene il paese, vi operi da anni, esiste una ricetta per garantire al Pakistan adeguati standard di sicurezza e di approvvigionamento alimentare? Se, qual è questa ricetta? La ricetta è un uso razionale della terra che in questo paese ha anche un altro problema che è il problema di grandi latifondi, sono poche famiglie che gestiscono, che possiedono delle grandi quantità di terreno dove poi la gente lavora come trasciante agricolo. Naturalmente tutto questo è aggravato dalle situazioni catastrofiche che ormai si ripercuotono, questo è il terzo anno di fila che in Pakistan ci sono alluvioni nelle zone centro-sud. Quindi un uso razionale della terra, una decrescita di alcuni standard che sono standard occidentali che mettono in crisi queste economie sarebbe sicuramente raccomandabile. Nel momento in cui una realtà come CESVI va ad operare, in qualche modo non credi che deresponsabilizzi il governo pakistano? È possibile secondo te che si instauri un circolo che è vizioso, per cui voi fate tanto e allo stesso tempo, siccome voi fate tanto, il governo di Islamabad dice vabbè, tanto c'è CESVI, ci sono altre 10 organizzazioni, il problema lo gestiscono loro, ecco. Secondo te esiste questo rischio? Ma questo sicuramente è un rischio che esiste. Nella fattispecie degli ultimi delle alluvioni del 2010 e del 2011, diciamo che lo escluderei abbastanza perché effettivamente la dimensione di questi disastri è stata talmente grande che nessun governo sarebbe stato capace da solo di intervenire. Però sì, è un rischio non soltanto nei confronti del governo, ma anche nei confronti dei beneficiari stessi, perché a volte appunto gli aiuti indiscriminati e gli aiuti continui senza una strategia di uscita provocano dipendenza, quindi poi ti ritrovi ad avere delle persone che alla minima difficoltà, invece che a rimboccarsi le maniche, aspettano l'aiuto internazionale. Per evitare questo, nel nostro lavoro coinvolgiamo sempre tantissimo le comunità. Considera che noi abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni con circa 400.000 famiglie, per cui per poter lavorare con tutte quelle famiglie l'aiuto, il supporto e la capacitazione delle comunità è stata indispensabile e fondamentale. E dall'Etiopia ci rispostiamo in Africa, lo facciamo sempre grazie a Stefano Piziali, curatore della versione italiana dell'Indice Globale della Fame, che stiamo cercando, come dire, di radiografare per capire meglio che storie ci sono, che paesi ci sono dietro a questi numeri e come il mondo potrà sostenere la propria fame nei decenni a venire. Sfioriamo, Piziali, in parte il tema dell'hand grabbing, che in Etiopia ad esempio, ma poi in Etiopia ci andiamo con un altro ospite, è un esempio piuttosto un tema piuttosto spinoso, ma anche in Sierra Leone, no? Questo è un esempio che tu volevi portare perché è particolarmente indicativo. Ma guarda, il hand grabbing è uno dei modi che oggi c'è per sfruttare la terra, cioè accaparamento di grandi estensioni per 90 anni circa, a volte la popolazione locale non è ben cosciente dei criteri che gestiscono l'affitto della terra, si fidano degli intermediari. Queste terre, il più delle volte però, il nostro rapporto lo dice molto chiaramente, non vengono utilizzate per produrre più cibo. Oggi il 50% circa di tutte le terre affittate per periodi decennali sono utilizzate per produrre fibre naturali o biocarburanti, e quindi tutto ciò si traduce in un appesantimento della fatica alimentare dei paesi che affittano la terra. In Sierra Leone però abbiamo avuto anche un esempio positivo, che è uno dei paesi in cui la gran parte della terra viene affittata, ed è stato quello di una nostra organizzazione partner, appunto Weltungerhilfe, che ha promosso un programma di recupero della produzione di cacao, per cui è riuscita in 3 anni a moltiplicare per 3 il reddito dei contadini coinvolti grazie al miglioramento della qualità del cacao prodotto. È un'alternativa concreta all'affitto della terra per lungo tempo. Ecco, questo anche per dare, come dire, delle risposte in qualche modo, suggerire delle soluzioni. A proposito di land grabbing, io volevo segnalarvi, cosa che voi sapete, chi mi segue sa, amo anche segnalare lavori fotografici e non solo di pura scrittura. C'è un fotografo italiano, si chiama Alfredo Bini, che ha lavorato su questo tema in Etiopia un anno fa circa. E vi segnalo, fra l'altro lo posteremo su Facebook, alfredobini.com, ha fatto un bel lavoro proprio sul land grabbing, sul valore della terra, girando in lungo e in largo il paese del Corno d'Africa, e fra l'altro questo lavoro è stato proiettato lo scorso settembre a Perpignan durante il Visa pour l'Image, che è questo, appunto, questo appuntamento che i fotografi conoscono bene. Piziali, c'è un caso fra tutti, però su questa estrema sintesi, perché dobbiamo fare una piccola pausa. Abbiamo visto come il Pakistan, eventi imprevisti come le alluvioni, come dire, fanno precipitare i paesi nella classifica finale. Abbiamo un caso eclatante che è Haiti, che se la stava cavando bene, mi si passa il termine, poi il terremoto ha in qualche modo scompigliato le carte. Incidono molto gli eventi naturali in questa classifica che voi stilate? Cioè i fattori che voi tenete in conto sono particolarmente sensibili rispetto a questi eventi catastrofici improvvisi? Haiti si trova al terz'ultimo posto della classifica e è uno dei paesi più colpito da disastri naturali negli ultimi 15 anni, perché quando non è il terremoto abbiamo i cicloni e quindi è molto esposto a questi eventi climatici. Oltretutto gli eventi climatici incidono molto sulle opportunità alimentari delle popolazioni, perché espongono la produzione agricola a una notevole volatilità. Per se mi permetti una battuta ancora sul land grabbing, però certo. un aspetto importante che il rapporto sottolinea è proprio questo, che i paesi nei quali la quantità di terra è accaparrata sono soprattutto i paesi più affamati. Quindi abbiamo una situazione paradossale che in Sierra Leone, in Etiopia, in Liberia e in tanti altri paesi dell'Africa la terra locale di buona qualità viene utilizzata per produrre merci per l'esportazione e non per produrre cibo. Ecco, questo... I contadini locali diventano braggianti, per cui peggiorano il loro livello di vita, paradossalmente. Questo è uno dei tanti paradossi che possiamo tratteggiare parlando appunto di questo indice globale della fame nel mondo. Ve ne suggerirò altri 4. Oggi nel mondo ci sono 148 milioni di bambini sottopeso contro i 155 milioni di bambini obesi o in sovrappeso. Per la prima volta in 50 anni le nuove generazioni avranno una minore aspettativa di vita. Ogni anno nel mondo si contano 20 milioni di decessi causati da eccesso di cibo e 36 milioni di decessi causati da mancanza di cibo. Attualmente nel mondo coesistono 1 miliardo di persone malnutrite, 1 miliardo di persone che non hanno accesso all'acqua e coesistono circa 3 miliardi di animali da allevamento. Un terzo dell'intera produzione alimentare globale è destinato alla loro nutrizione e gli animali contribuiscono significativamente ai fenomeni di cambiamento climatico. Si stima infatti che essi siano responsabili di almeno il 50% delle emissioni agricole. Un ulteriore paradosso riguarda la competizione tra biocarburanti e cibo. Una quota crescente di terreni agricoli, infatti, è destinata alla produzione di biocarburante. Il consumo annuale di mais negli Stati Uniti è di 390.000 metri cubi, dei quali il 55% è destinato all'uso alimentare, mentre il 45% serve alla produzione di etanolo per carburanti. Ma al mondo i possessori di automobili sono 1 miliardo, contro i 2 miliardi di persone che hanno difficoltà di accesso al cibo. E questi sono 4 paradossi stilati dal Barilla Center for Food and Nutrition, uno di cui rappresentanti era presente appunto durante la presentazione giovedì nella sede dell'ISPI a Milano dell'Indice Globale della Fame, che ci siamo permessi di fare nostri perché credo che raccontino molto bene. Si parlava con Pizziali appunto di dei paradossi del land grabbing. E vi sono questi altri 4 che trovo particolarmente illuminanti. Spiegano come manchi alla definitiva un approccio, una politica, una governance globale, come si dice. Forse questa sarà la ricetta che potrà salvarci nel futuro. Allora, 19:49 minuti in questo esatto istante, allora io vi porto in Oromia, Sud Etiopia. Non si può pagare e commerciare al pozzo, niente soldi per l'acqua. Non si può assolutamente litigare in questo pozzo. Se qualcuno viene alle mani, uno dei suoi animali viene subito sgozzato. L'unica cosa che abbiamo è l'acqua del pozzo. E quello che avete sentito era un estratto, Le voci dall'acqua che vengono dall'Etiopia, un documentario firmato fra gli altri da Paolo Barberi, che è qui con noi. Paolo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Paolo Barberi ha raccontato la storia di un pozzo, infatti il documentario si chiama The Well, e ha scoperto che esiste una via alternativa, cioè esiste un modo per amministrare una risorsa scarsa che è l'acqua, e che però insomma queste tribù attorno a questo pozzo ce l'hanno fatta. Sì, sì, noi diciamo in realtà siamo, a proposito, diciamo, per entrare nella filosofia del titolo del programma, noi siamo partiti dal noi, cioè noi abbiamo cominciato a lavorare sul tema dell'acqua intorno al 2008, quando qui in Italia si preparava appunto il referendum sull'acqua, e cercavamo un esempio virtuoso che potesse in qualche modo testimoniare un uso differente, insomma, che potesse andare al di là dell'industrializzazione, del commercio delle risorse, e l'abbiamo trovato in Etiopia, presso questa popolazione appunto dell'Oromia, che è una zona del sud dell'Etiopia, in particolare in un'area desertica che è al confine col Kenya, dove questa popolazione di pastori seminomadi che si chiama Borana ha appunto questo modo molto democratico e condiviso di utilizzare l'acqua, che è poi la risorsa più preziosa, perché senza l'acqua non si possono abbeverare gli animali, e senza gli animali nessuno riuscirebbe a sopravvivere in quell'area. E la cosa interessante è che appunto in una delle zone più aride del mondo, dove l'acqua è la risorsa principale e dove ci sono anche molti conflitti clanici o etnici, l'acqua è considerata una risorsa che non può in qualche modo appartenere a nessuno, cioè deve essere comunque condivisa, deve essere condivisa tra clan anche se sono in conflitto tra loro, e chiunque chiede di bere, insomma, è una cosa che non gli può essere negata, ecco, gli deve venire per forza concessa. Fra l'altro il documentario sta girando non solo in Italia ovviamente, anzi molto più all'estero che in Italia, è stato anche più volte premiato, noi posteremo su Facebook il link così gli ascoltatori potranno godersene alcuni estratti. Sinteticissimi, perché siamo in chiusura di trasmissione, una domanda per Barberi: appunto, qual è la ricetta di questa popolazione che riesce a gestire una risorsa così scarsa e al contempo così importante? Ma io credo che il segreto sia appunto non porre, ecco, quello che io posso aver imparato da questa esperienza è che appunto non bisogna porre troppe distanze tra le risorse principali che abbiamo a disposizione e noi stessi. Nel senso che, ecco, noi abbiamo infinite mediazioni alla fine tra noi e le nostre risorse, l'energia e l'acqua, perché appunto siamo costretti a demandare a strutture più grandi di noi il loro utilizzo. Ecco, probabilmente il segreto di questa popolazione che riesce a sopravvivere in una zona veramente dura e arida del pianeta è questo, che insomma si sono fatti carico di gestire in prima persona una risorsa e questo insomma gli permette di sopravvivere con le proprie forze. Fra l'altro senza alcun intervento occidentale. Sì, esatto. Loro diciamo preferiscono avere una dura indipendenza, perché poi sono costretti a tirare l'acqua a mano per ore durante il giorno, piuttosto che essere dipendenti dalle tecnologie che sì, potrebbero aiutare, potrebbero alleviare la loro fatica, ma che poi insomma non garantirebbero l'indipendenza di questa risorsa. Ecco, l'indipendenza di questa risorsa è al centro del documentario The Well, che hai firmato assieme a Riccardo Russo. Posteremo su Facebook il link. Grazie intanto per essere stato con noi, Paolo Barberi, buona serata, buon lavoro. Altrettanto, grazie a voi. E l'ultima domanda per Stefano Pizziali, che è un po' la domanda cardine: come si fa questa governance globale? Cioè, chi dobbiamo mettere d'accordo per come dire, fare in modo che le risorse finiscano in maniera più equa, che si gestiscono in maniera per non finire in quei paradossi che abbiamo raccontato prima? Con chi bisogna parlare? Con quali grandi della terra bisogna andare a parlare? La sede propria per affrontare queste tematiche è probabilmente il G20, che comunque sappiamo è diviso su tante tematiche. Per venirne fuori bisognerebbe mettersi d'accordo sulla gestione delle risorse naturali e degli investimenti in agricoltura, affrontando anche la questione di come includere i gruppi marginalizzati sulle questioni alimentari. E poi naturalmente ascoltare le raccomandazioni che arrivano dal Comitato per la Sicurezza Alimentare delle Nazioni Unite, che ha varato da pochi mesi delle linee guida per la gestione dei diritti di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste. Sono linee guida volontarie, ma che auspicano una soluzione graduale, ponderata, anche rispettosa dei diritti economici su queste tematiche. Volevo ricordare che il rapporto propone una soluzione ottimistica, non è affatto ineluttabile vivere in un mondo affamato. Per sapere come, invito tutti a scaricare il rapporto dal sito del CESVI, www.cesvi.org, perché comunque la prospettiva ci riguarda da vicino. E grazie, perché vi sono appunto alcune delle indicazioni che in parte è già anticipato. Grazie a Stefano Pizziali per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro. Grazie anche a voi gentili ascoltatori per essere stati con noi. Vi ricordo che con me hanno confezionato questa puntata Laura Faggin, Nadia Zammitti, e la musica e il ritmo gliel'ha data Filippo Aureggi. Buona serata.